America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Qualche tempo fa vi ho parlato di Italy, questo straordinario, grande centro gastronomico che ha aperto all'angolo della 23 con la Quinta Strada, con Broadway, e che oggi ha un flusso di quasi 20.000 clienti al giorno. Opera di Oscar Farinetti, con Mario Battali, con Lidia Bastani, insomma alcuni dei grandi nomi della gastronomia americana. Il giorno dell'inaugurazione di Italy è andato persino il sindaco Michael Bloomberg, il quale ha raccontato che il suo piatto di pasta preferito è un piatto di spaghetti all'arrabbiata con delle salsicce sopra e con dei pinoli e con una serie di altre cose che avevano lasciato un po' tutti inorriditi. I like pasta marinara arrabbiata. If I had to pick one thing, a little bit of sausage on top would be fine and some pine nuts. Bene, più avanti scoprirete come mai Bloomberg si è creato questa ricetta molto speciale di spaghetti all'arrabbiata. Oggi però vorrei parlarvi dell'altra faccia della medaglia, non del capitale italiano che viene qua ad investire, ma del capitale umano italiano che è arrivato qua da immigrato e che è riuscito ad ottenere lo stesso un grande successo. Sono venuto al ristorante San Pietro, il ristorante dei fratelli Bruno, quattro fratelli arrivati letteralmente con la valigia e lo spago negli anni 70 negli Stati Uniti, che oggi hanno creato una piccola catena di ristoranti che fattura direi quasi quanto una piccola media azienda italiana e che soprattutto sono riusciti a crearsi un nome a New York, perché l'affluenza dei clienti, della clientela importante in questo ristorante è davvero straordinaria, al punto che proprio oggi, mentre siamo qui al ristorante, c'è un gruppo, un paio di produttori e finanzieri americani che hanno deciso di realizzare un documentario sulla loro storia. I do a lot of documentary television and I'm here because Pat and his brother Mark suggested that this was a great possible storyline for a really interesting documentary TV series, and I've just met all four brothers, and I think they're right. It's fascinating. Il produttore mi spiega che la storia di questa famiglia è molto bella perché rappresenta il tipico sogno americano, chi arriva con nulla ma riesce non soltanto a crearsi una posizione, ma una posizione importante. Dunque vogliono farne un serial televisivo e l'idea è di raccontare la storia di questi fratelli che sono arrivati in America e di così dare un'idea di quali ricette si possono cucinare. E dunque, eccoci qui al San Pietro a parlare con i fratelli Greco. Antonio, siete arrivati tutti insieme o lei è stato il primo? Sì, sì, tutti insieme siamo arrivati. Abbiamo fatto una sbarcata da Salerno. Ma sbarcata da Salerno, in nave o in aereo? In aereo. Siamo arrivati sì, in aereo, sì, perché la nave ormai, la Michelangelo già era andata via, non c'era più. E c'erano parenti qui, un genitore o qualcuno? Sì, c'avevamo le nostre zie e c'avevamo mio nonno e la mia nonna che ci hanno accolto in una maniera molto bella. Il giorno dopo mi hanno portato a lavorare, immaginate. il nonno mio è venuto qua in America perché la sua sorella aveva sposato un americano durante la guerra. E allora questa mia zia, non essendo mai ritornata in Italia, mio nonno decise di venire in America a cercarla e l'ha trovata. Si è messo a lavorare in un caseificio mio nonno, che ne conosceva le formaggi e cose, e si è messo a fare la mozzarella fresca, che qua ancora non esisteva. Mio nonno l'ha portata la mozzarella fresca 40 anni fa. Questi erano gli albori, Gerardo. Come avete fatto questo balzo dalle origini al 2010, quando il sindaco Bloomberg ed altri vengono? Tra l'altro mi pare che proprio ieri è stato il sindaco Bloomberg qui, è vero? Sì, gli abbiamo cucinato i capelli d'angelo con una salsa di pomodoro piccante, con salsiccia e pignoli arrostiti. No, Gerardo, questa non me la deve dire. E no, siete voi responsabili allora. Lei lo sa. Gli americani hanno sempre un modo per cambiarti la ricetta e devi farli contenti, sennò ci rimangono male. Sennò... Allora, facciamo la storia. Dalle origini a qui, cos'è che vi ha fatto fare questo straordinario percorso? Prima perché io e i miei fratelli veniamo dalle scuole alberghiere dall'Italia. Questo era il nostro obiettivo una volta venuti in America, creare il nostro ristorante. Come siete riusciti a far venire tutti questi clienti importanti? Io penso per la semplicità e la qualità del cibo. Se voi foste rimasti in Italia, pensate che avreste potuto avere lo stesso successo, non so, a Milano o a Roma come a New York? No, non penso, perché ancora oggi in Italia non penso che le opportunità siano divise in modo uguale per tutti. Si immagini un ragazzo di 24 anni come me, un altro di 25, un altro di 20, un altro di 16 che vanno in banca e chiedono un prestito di $400,000 perché hanno intenzione di fare un ristorante. Lei pensa che c'è oggi come oggi una banca in Italia che sia propensa a prestare $400,000 senza garanzie a quattro giovani che hanno un'idea? Io penso ancora di no, perché ho dei cugini in Italia che alla mia età, 45-50 anni, laureati, ancora non hanno un lavoro serio, ancora non hanno un lavoro fisso o qualcosa che dire l'Italia mi dà una mano, il governo mi dà una mano, mi fa crescere, mi fa fare quello che mi piace fare. Senta, e parliamo della clientela. Ci sono anche clienti italiani che vengono qua. Chi, per esempio? Tra i clienti italiani abbiamo, guardi, illustri. Abbiamo il senatore D'Urso, che è un amico. E sì. Poi abbiamo la famiglia Elkan, abbiamo la famiglia Agnelli, sempre. Abbiamo Colonnino. Però ci sono stati anche dei politici, anche Berlusconi è venuto qui. Fini, chi sono? Ci racconti una cena di Berlusconi. Guardi, la cena di Berlusconi è ancora un non comment. Quando potrò lo dirò, ma adesso ancora non come, guardi. E perché? Ormai è passato un paio d'anni. No, sono passati più di 2 anni, guardi. E allora? Però è un non come, perché quando uno dice, guarda, non lo dico, non se ne parla. E poi con Berlusconi penso che a distanza abbiamo un feeling molto importante che non mi sento di tradire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, per restare in atmosfera e in ambiente ne ho scelta una molto molto particolare, Dean Martin in una magistrale interpretazione di That's Amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing vita bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.